Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Allora, se vi dico che per esempio un ristorante, no? Sì. Mette dei tavolini, sappiamo insomma che adesso c'è stata questa liberalizzazione dei tavolini all'esterno. Che è una bella cosa. Che è una bella cosa. Speriamo continui, perché se poi la tolgono noi saremo orfani di queste mangiate all'aperto. Esatto, e convivialità anche. Beh, insomma, se questo ristorante mette abusivamente dei tavolini sul territorio comune, diciamo. Questo lo dici tu che l'ha messo abusivamente. Ma questo è il capo d'accusa che adesso andremo a guardare. Magari stanno pagando pure le tasse per l'occupazione del suolo pubblico. Ma può essere, però il reato imputato è quello di occupazione abusiva del suolo pubblico e resistenza pubblico ufficiale. Tu che sei uno della polizia locale, cosa fai? Vai lì, intervieni, no? Beh, certo, sei tu che rilevi il reato e intervieni. Insomma, c'è colluttazione e così via. Colluttazione anche? Colluttazione. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un episodio a Gallipoli. Ah, okay. Benissimo. Di un ristorante che aveva posizionato questi tavolini presumibilmente senza il permesso. Okay. E la polizia locale arriva e fa il suo dovere. Certo. Giusto, benissimo. Ovviamente. Allora, il tutto arriva ovviamente come al solito davanti a un PM. Ottimo. Benissimo. Mm-hmm. Questo PM, di cui non dico il nome, comunque è di Lecce, dice che la polizia locale ha agito con un singolare zelo degno di una tipica amministrazione comunale di paesi nordici, votata per seguire ogni minima forma di illegalità diffusa sul territorio. Lo zelo dei paesi nordici? No, del comune dei paesi nordici. Quindi vuol dire che il signore è stato in un comune magari qualche tempo fa. No, comune nel senso che è abitudine del paese nordico essere molto zelante nel perseguire questi tipi di reati. E ovviamente ha detto sostanzialmente: voi poliziotti siete stati un branco troppo di... zelo, esatto. Cioè non dovevano punire il reato, punire. Ma non ho capito, allora ci sono reati di minima, media e massima intensità, esatto, e bisogna andare un po', come dire, di morbidezza, un po' all'italiana, esatto, un po' all'italiana. E vabbè, dai, no, ma ragazzi, era spostate un po' il tavolino, apriamoci, stappiamoci staperoni, siamo tutti amici, esatto. Questo perché la cosa ovviamente che ha fatto sobbalzare anche i giuristi leggendo questa diciamo scrittura del PM è che si cita proprio lo zelo tipico dei paesi nordici, come se qua in Italia fosse, non dico abitudine, ma che ci fosse un po' l'abitudine a chiudere un occhio su questi reati minori. No, ma poi sembra che sia una cosa brutta lo zelo dei paesi nordici. Cioè, detto così sembra che sia un... Perché in tutto questo, scusami, mi sono perso il passaggio, il PM ha bloccato il, come dire, ha archiviato l'intervento dei poliziotti. Cerca di poliziotti. Archiviare, poi andrà cerca avanti. Poi se ne parlerà. Però sì, l'intervento del PM è stato questo, è meraviglioso. Come dire, ragazzi, dai, siamo in Italia, state tranquilli, esatto. Non è il caso di fare una multa. Ma poi a Gallipoli, capito, dai. Mamma mia. Tutto questo perché il luogo comune di oggi è: in Nord Europa lo fanno meglio. E che vuol dire che noi lo facciamo peggio. Sì, che noi siamo dei disgraziati. Non si sa cosa. Noi siamo l'altro. Il sud dell'Europa. E vero o no che c'è sempre questa, come dire, retorica attorno alla Scandinavia, la Danimarca, l'Olanda, il Belgio. Sai quando ti torna l'amico dalla Francia e ti dice: ma sai Francia. Che su... No, Amsterdam. Ma sai che in Olanda... No. Sì, ma Copenaghen. Ma sì. Ma sono aperti Stoccolma. Mentalmente. Oslo. Ma anche ragazzi, scusate, in Inghilterra puoi uscire di casa vestito come vuoi, nessuno ti dice bravo, nulla. Quello anche a Milano, c'è visto della gente vestita con dei disperati in giro per strada. No, a Milano ti giudicano ancora. Sì, ancora ti giudicano. Allora, ho una teoria però che vi espongo. Su che cosa? Sulla questione sul del fatto che al nord si facciano meglio le cose. Cioè, io ho cercato di andare alla radice. Aborigine. Alla radice antropologica. Che è vero, secondo questa... te. Cioè, le cose le fanno meglio. Dato che tu sei io biondo, non so se le fanno tu meglio. Sei biondo con gli occhi azzurri, sei un po' austro-ungarico. Sì. Ti senti migliore di noi che siamo un po' più moretti? Per nulla, perché questo vorrebbe dire che io non sono così arrogante da dire che sono meglio di voi. Okay. C'è un però. Però allora, cosa è successo? 100.000 anni fa la nostra specie, no? Attenzione. È partita dall'Africa e ha iniziato ad esplorare. Sì. Ad un certo punto abbiamo alzato la testa. Sì. E ci siamo spinti per la curiosità in altri luoghi. Nell'evoluzione, per andare verso nord, sono sopravvissuti quelli che meglio riuscivano ad adattarsi. Quindi noi italiani a un certo punto, che non eravamo ancora italiani, eravamo scimmie che venivano dall'Africa un po', insomma, che però parcheggiavano già in seconda fila, eravamo scimmie di Buccinasco, ci siamo un po' accontentati e quindi abbiamo detto: ah, ma guarda qua che bello spiazzo che c'è qui sul Mediterraneo. Guarda, comodo, sembra uno stivale, fermiamoci qui. Che clima temperato. Loro invece si sono spinti ben più in alto, sì, a temperature più forti, più rigide, luoghi più aspri e difficili. E li hanno conquistati. E perché facevano lavorare il cervello di più. Bravissimo, e si sono dovuti adattare. Cosa che noi non facciamo puntualmente, quello no, di usare zero. Il cervello quindi, di più. Quindi stai confermando il luogo comune per cui, cioè, la teoria per cui al caldo ci si rilassa. Capito, tu stai e là, la vita no? è bella, c'è il mare, il sole, la mozzarella, i pomodori. E invece al nord non c'è nulla, devi un attimo far andare il cervello. Allora, qua, e quindi stasera migliorare. Bisogna organizzarsi, amore. Mi sono inventato una favola per te, cioè così, capito? È così. Bello però come teoria. Non so se Barbero, Barbuiani, tutta la serie di persone, provato, anche Furlan, ragazzi, neopsichiatri. In realtà ero partito da un libro di antropologia, poi mi è scappata la mano. Cioè, la frase iniziale di 100.000 anni l'ho presa però da un libro. Secondo me non è tanto distante da quello che ha detto Beppe. Faremo un'altra puntata con un antropologo. Intanto però su Twitch, voi dovete sapere, cari ascoltatori di Off Topic, che siamo anche live su Twitch in questo momento, mentre facciamo la puntata, e ci potete trovare sia il mercoledì mattina e il venerdì mattina, mentre registriamo la puntata, perché sì, questa puntata è registrata. Possiamo dirlo? Sì, possiamo, sì, possiamo dire questa cosa? Sì, mentre lo dici sembri come 2020. In Tenet. Stai dicendo una cosa adesso che poi si sentirà più avanti. Esatto. Tornando indietro nel bravo, bravissimo. Allora, abbiamo chiesto al nostro pubblico su Twitch, ragazzi, mandateci dei contributi audio sul nostro numero 340 830 3758. Sul luogo comune in Nord Europa lo fanno meglio. E ci è arrivato un audio. Sì, un audio. Che parlava del fratello di Andrea Roccabella. Non che è fratello, sì, ma noi vogliamo che sia così. Ormai perché è genovese. Sentiamolo, dai, sentiamolo. Ciao ragazzi, niente, volevo dire che dopo 8 anni comunque di vita a Londra, la moquette io nel bagno non l'ho mai vista. Si saranno evoluti anche loro, mettila come vuoi, non ci saranno più inglesi a Londra. Però ho sempre avuto piastrelle, linoleum o parquet. Vedi? Ah, ecco. Perché io sostenevo che, esatto, perché le esperienze mie inglesi avevano sempre come si dice? Il parquet con no, la il parquet, no, la moquette in bagno, sì, che è una cosa secondo me da veramente a terzo mondo. Sì. Però l'audio di questo nostro amico ascoltatore conferma che non è così, ma denota anche che non ci sono più inglesi in Inghilterra, altro luogo comune, capito? Può essere. Comunque la moquette è brutta se non la lavi, ancora sta teoria. Ma non si può se pulire. Tu pulisci la moquette è pulita. Allora, due cose. Uno, la notizia è che gli inglesi hanno scoperto le piastrelle, prima notizia, sì, mi pare di aver capito. Seconda notizia è che gli inglesi, non è che non ci sono più inglesi in Inghilterra, gli inglesi sono ovunque, c'hanno... Al di là che sono usciti dall'Europa, no? Esatto. Appunto, no, quindi basta. Chi se ne frega. Esatto, ma di che parliamo? Basta. Non ci sono più, ma basta. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. Allora, siccome nessuno dei tre ha fatto l'Erasmus in generale e men che meno in Nord Europa, giusto se non sbaglio? Vero, sì, non l'ho fatto. Una piccola cosa di cui mi pento un pochino, un pochino anch'io, sì. Mia, quanto sei veramente basso. Sì, basso perché lo stai dicendo per un motivo solo, perché in Erasmus no, la leggenda no, non racconta, per quello. È una bella no, esperienza vero, che ti apre a possibilità lavorative. Anche questo luogo sì, comune. Cioè, forse è certo, l'unico mezzo rimpianto che ho. Possibilità lavorative, esatto, tu le chiami. Allora, siccome nessuno di noi ha vissuto a lungo tempo nel Nord Europa, abbiamo con noi Marta Paterlini, che è una ricercatrice in neurobiologia al Karolinska Institute di Stoccolma e giornalista scientifica che vive attualmente a Stoccolma. Ciao Marta! Ciao a tutti! Ciao, come stai? Bene, fa freddo ma stai bene. Ah, fa già freddo, ma che bello! Fa già freddo, dalle stupendo! Ma allora, stai meglio nei paesi nordici o no? Di la verità, ah, questa bene, pausa. Ah, la pausa, però questa pausa però di 7 gradi di oggi. La pausa. Di la verità, vuoi tornare a casa? È una domanda difficile. Vuoi tornare a casa? Dici la verità che vuoi tornare a casa, basta. Basta, non ne puoi ma più no, di questo salmone, non ne puoi più di questo salmone con l'aneto. Col Filadelfia, con l'avocado. Le aringhe acide. Beh, buone quelle. Si fa anche il panino, no, con la ringa acida, o sbaglio? Con la ringa acida, sì, sono talmente puzzolenti che deve aprirle all'aperto. Ah, ma a parità di soldi torneresti in Italia? Adesso come adesso no, devo okay, dire con due figlie adesso mi attirerò l'odio di tutti, ma secondo me l'Italia non è un paese per giovani donne e quindi No, è vero. Con le mie figlie sto qua, okay. Però sì, io in Italia ci tornerei dopo domani. Allora, tu da più di 20 anni hai lasciato l'Italia. Prima sei andata a Cambridge, hai partorito il primo figlio, che è il tuo libro, sostanzialmente. Poi sei stata a New York, hai avuto la prima gravidanza vera e propria, quindi hai una figlia statunitense. Ora vivi in Svezia, hai avuto la seconda figlia ed è appunto nordica, e lavori full time, hai due figli e sei separata, giusto? Sì, okay. Da qualche anno. Da qualche anno. E tu riesci a conciliare tutto questo tranquillamente? No, tranquillamente forse è un termine troppo forte. Tranquillamente però... no, sempre di corsa. Però devo dire che devo dire grazie alla Svezia, è un paese che tutela molto le donne, ma tutela la famiglia, secondo me. Cioè il concetto di famiglia è tutelato tantissimo in Svezia, per cui è normale che in una situazione di lavoro ad un certo punto ci si deve accordare per l'orario di un meeting, e tutti quanti, uomini compresi, controllano a che ora devono andare a prendere il figlio all'asilo e tutte queste cose qua. Cioè il lavoro si flette diciamo rispetto al mondo privato, è il contrario rispetto a quello che succede in Italia. Cioè noi rosichiamo sempre più tempo alla vita privata in favore del lavoro. Esatto. In Svezia, esatto. Nei paesi nordici, adesso generalizzando come facciamo noi in questo programma, è il contrario. Beh, verrebbe quasi da dire quella cosa della produttività, no? Sei ore, voi lavorate meno, però lavorate meglio, altro luogo comune. Lavorate meno, lavoriamo meno, no, però secondo me viene più distribuito appunto all'interno della famiglia, per cui è normalissimo che sia mamma che papà lavorino, i nonni lavorano, e quindi è la società che aiuta la famiglia. La famiglia è vista come risorsa di ricchezza, per cui il fatto che lavorino entrambi i genitori va benissimo. Per cui c'è la tendenza a, sì, non dico di lavorare meno, ma di lavorare, distribuirlo meglio, più sano forse, per avere più tempo poi per la famiglia. Allora Marta, vorrei procedere per passi brevi. Innanzitutto il luogo comune, cioè che in Nord Europa fanno tutto meglio. È vera questa cosa o no? Ma sono più efficienti. Sono più efficienti. Meglio, no? Dopodiché ci sono una serie di luoghi comuni, sia pro che contro. Scusami Ale, su efficienti ti chiedo una cosa. Le poste della Svezia, bravo, come sono? Bravo, bravo, bravo. Perché le poste? Faccio un paragone con le poste in Italia. No, le poste della Svezia funzionano. Tu spedisci e sai che il giorno dopo arriva. Il giorno dopo? Ma come il giorno dopo? Non è vero. Cioè, cos'è? Che ci sono i leoni volanti. All'interno del paese sì. Poi però, per esempio, un luogo, se vogliamo sfatare un luogo comune, sì. I treni sono un disastro. Come sono un disastro? Eccezionali. Perché i treni li ha fatti lui, capito? No, da noi. Quindi non si può dire. Non si può dire. Non si può dire. Esatto. Non si può dire. No, spiegaci perché sono un disastro. Sono sporchi, sono disorganizzati, arrivano in ritardo. Più che un disastro, i treni svedesi sono, secondo me, dovete tutti quanti rivalutare i treni italiani. Perché quelli cancellano, arrivano in ritardo, non c'è la velocità. Cioè ci sono dei treni un po' più veloci, ma non sono così veloci. E così era in Inghilterra. Per cui queste cose non, per esempio, i treni in Svezia non funzionano tanto. Però Marta, questa cosa qua dei treni ovviamente è legata al fatto che, per esempio, l'auto non è così diffusa nei paesi nordici, cioè non c'è un rapporto così alto tra auto e famiglia, giusto? No, per esempio a Stoccolma, io ho l'esempio di Stoccolma, dove veramente il servizio urbano di metropolitane e autobus è eccezionale, per cui in effetti funziona tutto benissimo. L'auto la usi se devi andare fuori città e ci sono tante famiglie, e non per questioni economiche, che l'auto non ce l'hanno, per esempio. Preferiscono affittarla se devono fare un viaggio. Scusa, ma mi viene una domanda, ma senza macchina come fai ad andare all'IKEA e com'è l'IKEA della Svezia? L'IKEA della Svezia è fantastica, sì. È uguale a quella che c'è a Brescia. No, io sono di Brescia tra l'altro, quindi siamo stati entrambi nella stessa IKEA da giovani probabilmente. Sì, abbiamo mangiato le stesse polpette. Quelle col sughettino, che ma buone. Sono più buone in Svezia le polpette? O sono o più o meno quello che mangiamo l'IKEA è la stessa cosa. Dall'altro l'IKEA uguale, ci sta sponsorizzando. Identico. Beh, esatto. È uguale identico. Ecco, a proposito del cibo, ma non so, i luoghi comuni si sanno. Allora, quelli contro, no? Che si mangia male nei paesi nordici, è vero? Ma in Svezia in realtà si mangia, secondo me a Stoccolma si mangia bene. Costa trovi ristoranti di tutti i tipi. La vita costa di più. È caro il bere. Tipo? Due o tre volte di più. C'è una birra tipo costa quanto? costa 10 euro. Mazza! Per una birra, un deca è tantissimo, ragazzi. Però il luogo comune è che è tutto proporzionato allo stipendio che prendete, che è più alto, giusto? Sì, sì, è un po' più alto, credo. Un po' più 20-30% più alto. Quindi te lo spendi tutto in bere, sostanzialmente. No, non sto scherzando. Loro lo spendono tutto in bere. Tu ti accorgi a Stoccolma quando hanno dato lo stipendio, sì, perché quella sera meglio stare in casa. È meglio stare in casa, sono tutti ubriachi. Poi continuando sui luoghi comuni, come dire, contrari, c'è anche il fatto che non avete il sole, cioè, o comunque d'inverno diventa un posto, non so, nord, triste, nord, buio. Sì, a Stoccolma, Stoccolma anche, ancora, invece ancora abbastanza. Ma sì, non c'è il sole da novembre, comincia. Però devo dire che loro sono riusciti, a proposito di prima che parlavate di adattarsi, hanno inventato l'energia elettrica, no? Hanno inventato le candele, no, nel senso che c'è tutta una cultura bellissima sulla luce verso novembre, dicembre, gennaio, per cui le case mettono lampade alle finestre, si fa colazione con le candele, per cui in realtà hanno trasformato questo momento brutto, buio, in un momento molto quasi romantico, vorrei dire. Poi in realtà è pesante, certo, molto pesante. Certo. E sì, poi hanno anche visto, c'è anche chi dice che questa, cambiando completamente topic, la Svezia è considerata la Silicon Valley europea per tutte le start-up, prima fra tutte per esempio Spotify. Sì, certo. E dicono che oltre a una politica che sovvenziona ovviamente l'innovazione, ci sia anche questo fattore di tanti mesi bui e freddi, per cui questi ragazzi, di solito sono giovanissimi, chiusi in casa, buttano fuori algoritmi. Cioè, non gli rimane che studiare, stai dicendo. Cioè, siamo in un posto in cui c'è buio, in cui, e quindi una sorta di eremitismo del nord. Cioè, una sorta di creatività, cosa facciamo? O si beve o ci inventiamo. O si inventa qualcosa. A proposito di Spotify, ricordo ai nostri ascoltatori che potete trovare tutti i nostri podcast di Off Topic sulla piattaforma Spotify. Andiamo sui pro a questo punto, velocemente, Marta. Allora, c'è maggior rispetto delle regole e più civiltà. È vero o falso? Quello di sicuro. Ok. Sì. C'è meritocrazia? Abbastanza, sì. Per anche esempio, se devo dire, con gli stranieri un po' ancora c'è tanto da fare, però sì, c'è meritocrazia. Ah, cioè, ti vedono un po' italiana? Come ti vedono? Come sei vista? No, gli italiani le adorano in realtà. Ah, ok. Ma, penso. Ma non, gli stranieri non riescono, anche se ne prendono tanti a tutti i livelli, diciamo, di educazione, poi però ai livelli decisionali non c'è, è difficile che ci arrivino. Cioè, dici che è più aperta, per esempio, una struttura come quella statunitense o americana? Assolutamente, sì, anche inglese, anche britannici, sì. Senti, e invece, passando sui luoghi comuni che gli svedesi hanno verso l'italiano, ad esempio la pizza e queste cose qua, è vero? È vero, il luogo comune è che l'italiano è la pizza, neanche... Sì, la pizza. È la pizza, cioè, vabbè, siamo gli ambasciatori della pizza nel mondo. No, esatto. devo dire che almeno con tutti gli svedesi che ho conosciuto, l'Italia è vista come un paese bellissimo dove si mangia benissimo e siamo un po' poco affidabili, quello sì, ecco, purtroppo siamo un po' così. Ti voglio chiedere una cosa importantissima: le tasse, quante ne paghi in Svezia? Ma no, perché? Perché questo è il tema del nord e del sud, di solito, no? Le tasse. Ah, sai, i paesi del nord si pagano meno tasse, tante, si pagano meglio e poi ci sono più servizi. Tante. Quante ne paghi? Dipende dagli stipendi, intorno ai 22%. Vabbè, non sono tanti, non sono tantissime. Credo che in Italia sia sul 40 no, rock, no? Credo che in questo momento i nostri ascoltatori stiano piangendo. Sì, tipo. Esatto. No, 40% con stipendi molto alti, quello sì, anche di più. Sono progressive. Anche il 60%, certo. Però devo dire che i servizi, ci sono servizi. Le scuole sono gratis, le università sono praticamente gratis. Gli studenti universitari vengono sovvenzionati dallo Stato e non dalle famiglie. C'è il welfare, la maternità, per cui maternità e paternità probabilmente e paternità. Ma, senti Marta, noi siamo, abbiamo fatto un percorso a rebours, cioè al contrario, siamo andati a bomba sul come si vive nel nord Europa e come si sta bene o quali sono anche i difetti, ma la vera domanda in fondo a questa puntata è: perché tu sei andata via dall'Italia? Allora, in realtà sono andata via dall'Italia per amore, poi però la ricerca in Italia non è un settore molto che molto rispettato, mi viene da dire, per cui alla fine se vuoi fare ricerca, come minimo fai un'esperienza all'estero e spesso non riesci a ritornare o non hai più voglia tu, di fatto. Certo. In Italia la ricerca non è vista come un prodotto di ricchezza, che in realtà è, perché produce ricchezza in un paese. È in Svezia, esatto, si diceva prima, start-up, sì, e quant'altro. Cioè tu sei un cervello in fuga, avevi quanto? 27, 28 anni, 26, quello che è? 27. Eri una dottoranda, una ricercatrice, volevi fare carriera accademica. Per 6 mesi. E hai detto, vabbè, sentite ragazzi, io qua non riesco a vivere, cioè non riesco a crearmi una carriera. E sei arrivata fino a Stoccolma. No, più che altro è anche tutto l'atteggiamento, a prescindere dalla ricerca. Sì. Che di diverso dall'Italia, che è la fiducia che viene data ai giovani invece in America, cioè, è molto una buona idea. Se sei giovane non sei visto come un arrogante, è un minus, non è un minus, certo, chiaro. Perfetto, sì. Allora noi in redazione abbiamo trovato, su suggerimento del nostro regista Andrea Roccabella, uno spot di una compagnia aerea scandinava che non ho studiato, si chiama SAS, perfetto, che ha fatto questo spot che ci ha colpito molto, che ha giocato molto sui luoghi comuni svedesi. What is truly Scandinavian? Absolutely nothing. Rumor has it the oh-so-Swedish meatballs might not be as Swedish as you think, but Turkish. Even the Danish isn't Danish. It's Austrian. And the pride of Norway, the paperclip, was actually invented by an American. And while we're at it, America, thank you for taking the first steps in empowering the women's rights movement. We're no better than our Viking ancestors. We take everything we like on our trips abroad, adjust it a little bit, and voila! Sì, allora, in questo audio abbiamo sentito quante cose gli svedesi o gli scandinavi in realtà non hanno inventato. Noi affidiamo agli scandinavi, non so, ad esempio l'invenzione delle polpette, come abbiamo detto prima, oppure di qualcos'altro. A causa dell'IKEA, dici, o in generale? A causa dell'IKEA. Tendenzialmente. Però l'orgoglio non va più indietro di 20 anni, sì, esatto. Io sono rimasto sull'IKEA, ragazzi, e il mio obiettivo è far sponsorizzare l'off topic dall'IKEA. Sarebbe bellissimo. Io posso parlare solo bene dell'IKEA, mi dispiace, ma tra l'altro non sono giornalista. Lista, quindi non sto facendo niente di illegale. Dico solo che la mia ragazza stava aspettando il catalogo, quello cartaceo, da giorni praticamente. Comunque scusami. Perfetto, no, dicevo che ci sono tanti elementi che pensiamo siano di tradizione scandinava, in realtà vengono da tanti altri posti nel mondo. E la cosa bella di questo spot è che non nasconde il fatto che in Scandinavia non si nasconde, appunto, che si ruba, tra virgolette, cioè ci si appropria delle buone pratiche in giro per il mondo e si costruiscono, si tengono all'interno del proprio territorio. Ma è così, Marta? Ma è verissimo, nel senso che, per esempio, la tradizione una delle tradizioni più grandi della Svezia, che è Santa Lucia, uh-huh, il 13 dicembre, che è proprio questa crescita verso la luce nel buio, l'hanno rubata da Siracusa. Ah. Quindi questo è assolutamente vero. E tra l'altro ti ricorderai benissimo come a Brescia la sera prima di Santa Lucia dovevi andare a letto presto, perché sennò anche doni, sì, certo, ti portava i doni. Certo, chiaro. Senti, infatti quando l'ho ritrovata qua ero contenta. Hai trovato un po' di casa. Marta, per concludere la nostra chiacchierata sul Nord Europa, qual è la cosa che odi di più degli italiani? Odiare ovviamente è un termine molto forte, però insomma, per capirci. Che siamo delle lagne, dei cagnoni. Non ci piace nulla, ci lamentiamo. Mi piace questa risposta di Marta, devo dirvi. Vedendo anche il nostro canale Telegram e Twitch, effettivamente un pochino. Però è la base della filosofia, del portare avanti un pensiero. Ci si lamenta, ci si scontra e si prova a trovare un'idea migliore. Può darsi, però effettivamente la lamentela italiana è veramente forte. Infatti la domanda è, scusatemi, vorresti pagare il 22% di tassa andando in Svezia rinunciando alle melanzane di mamma? Se riesci a rispondere a questa domanda, vuol dire che puoi andarci. Ma le melanzane su in Svezia, sai quanto è? Guarda, però negli ultimi 5 anni hanno aperto un sacco di pizzerie napoletane, per cui sono evviva, te l'ho detto, torna sempre la pizza. Allora, ringraziamo Marta per essere stata qui con noi e buon lavoro in quel di Stoccolma. Ciao Marta, grazie mille. Va bene ragazzi, allora direi che siamo sul finire di questa puntata. Ricordiamo un po' voglia di andare in Nord Europa, comunque, sappiatelo. Ma sai che la potremmo andare a trovare a dicembre, che diceva che c'è quella cosa delle candele, no? L'evento delle candele, sì, con tutta la la cosa delle candele mi è Santa Lucia ci andiamo, scusa. Dai, mi è piaciuto. Quando è Santa Lucia? Il 13 dicembre. Ah, ok. Io rimuovo queste scadenze. Allora, i nostri contatti ci trovate su Instagram offtopic24, ci trovate su Twitch offtopic_24, ci trovate su Facebook offtopic radio 24. Scriveteci o mandateci un WhatsApp audio al 340 8303 758, e come regola radiofonica richiede, lo ripeto, 340 8303 758. Che bellezza. Che altro abbiamo? Parlando del crollo dell'impero romano, Carlo Maria Cipolla, in un breve trattatello simpaticissimo, scrive: certamente gli scandinavi possedevano una tecnologia navale superiore. Ecco. Così. Vedi? Ah, Medioevo. Su quello. Arrivederci. Ciao. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.